adesso resto da solo e siedo in una stanza buia e prego che la testa cambi, meglio non cedo. E lo sai che non mi piego, per adesso resto da solo e vedo che in questa stanza non c'è un rimedio, è solo scheletri nell'armadio. E lo sai che io non canto, per adesso resto da solo e sento il cuore che batte senza motivo e le foglie buttate per terra dal vento, attento ogni movimento, ecco qual è il mio sbaglio. Penso troppo come stare attento, ma adesso è l'ora di dare un taglio, staccare la spina, fare un viaggio, perché se guardo il sole non vedo un raggio, se non cambio testa mi sa che è peggio, come stare in ostaggio di tutto ciò che mi circonda, e bevo la mia birra bionda, convinto di stare sulla cresta dell'onda, mentre testa come avessi una cazzo di sonda, i miei pensieri girano a vuoto, io quello che ho dato e non torno indietro, spero che capito che tutto il passato l'ho cancellato, e adesso capisci, rispondi a quello che dico, l'ultima occasione prima che tutto qui sia finito, tutto il resto è già andato. Will you stay with me, now you come with me, I cannot stand you. Start to scream, this is fucking dream. Step by step I walk away from you. Will you stay with me? Now you come with me, I cannot understand you. Now I start to scream, this is fucking dream. Step by step I walk away from you. Adesso ho paura di farti avanti, di fare pensieri che poi magari ci pensi, ti penti. Quanto rumore c'è in questi silenzi? Stai tranquilla che il fine giustifica i mezzi. Se è la strada che hai scelto, adesso ti sta riducendo a pezzi. Raccogli i tuoi resti, non hai capito che siamo rimasti in due, io e te la passione, ma questa finzione mi sta lacerando come fosse una cazzo di estorsione. Aspetti, mi metto appoggiato ad una colonna della stazione, guardando i binari, magari tu che scendi rimani a dormire a casa mia. Ho bisogno di nuova energia, non cazzate, girate nei film di una troia che adesso chiamano poesia. E qualunque cosa sia, non mi importa, preferisco tornare a casa mia e di trovare almeno una porta aperta, è l'unica cosa che adesso mi importa, visto che adesso non rispondi. Ops, mi sa che ti confondi, o non ricordi che noi eravamo da soli nei nostri fottuti mondi. Ma adesso solo mi vedi nei sogni, tu gridi amore quando mi svegli. Amore, amore, ti sbagli, adesso non ho più sei. Will you stay with me, now you come with me, I cannot stand you. Now I start to scream, this is fucking dream. Step by step I walk away from you. Will you stay with me, now you come with me, understand you. Now I start to scream, this is fucking dream. Step by step I walk away from you. Ed ora sono vivo, non mi sento trasgressivo, mi ricordo quando uscivo, ero da solo, ora sono uscito. Adesso ogni giorno è più vario, quando me ne vado in giro con l'aria a fare stronzate, ma adesso non bevo. Ora mi conosco, sono a posto, ti ricordo che prima non mi conoscevo, infatti non vivevo, è come se non fossi mai esistito, era proprio come fossi dentro un rito. E forse mi dirai che io sono impazzito, no, sono cresciuto, non sono più muto, adesso ficcati il culo stupito, amora. Will you stay with me, now you come.